basta fare 0,45, che è la pressione fiscale, diciamo, quella apparente, cioè la somma di tasse, contributi, imposte diviso il PIL, e questo punto 45 lo dividiamo non per il PIL totale, diciamo, non per uno, ma per la frazione di PIL emerso, cioè per la frazione di PIL su cui si pagano le imposte. Siccome il sommerso economico è il 17,5%, dato ufficiale dell'Istat riferito al 2008, noi per neutralità l'abbiamo tenuto costante, dividendo 0,45 per 0,825, cioè per la parte di PIL che paga le imposte, abbiamo la frazione di imposte che pagano i contribuenti.